bimbo addormentato. E Maggie lo rasentò con passo più veloce e lieve per tema di destarlo. Non le venne neppure in mente che fosse uno dei suoi amici zingari, i quali invece con tutta probabilità dovevano avere dei costumi assai gentili. Ma le cose stavano precisamente così. E infatti, alla prima svolta del sentiero, Maggie vide proprio la piccola tenda semicircolare, donde usciva un fumo azzurro, quella che doveva esserle rifugio contro tutti i biasimi disonoranti che l'avevano perseguitata nel mondo civilizzato. Vide pure un'alta figura di donna presso la colonna di fumo, certo la madre degli zingari che preparava il tè ed altre spezie, e Maggie si sentiva stupita di non provarne maggior piacere. Ma era sconcertante trovare gli zingari su un sentiero e non su un terreno comunale. Veramente era questa una cosa che la deludeva alquanto, perché un misterioso, illimitato terreno comunale, dove ci fossero delle buche di sabbia per nascondersi e dove si fosse sicuri di non venire raggiunti, aveva sempre fatto parte del quadro che Maggie si figurava della vita zingaresca. Comunque, si avanzò, confortata dal pensiero che gli zingari verosimilmente non sapevano di poveri scemi, sicché non c'era pericolo che cadessero nell'errore di classificarla di primo acchito come una povera scema. Era evidente che aveva attirato la loro attenzione perché quell'alta persona, che si mostrò essere una giovane donna con un bimbo in braccio, le si mosse incontro lentamente. Maggie alzò gli occhi verso quel nuovo viso con un certo tremore, mentre la donna le si avvicinava. Ma si rassicurò al pensiero che zia Pallet e tutti gli altri dovevano avere ragione quando la chiamavano la zingara, perché quel viso, coi neri occhi lucenti e le lunghe chiome, aveva davvero una certa somiglianza con ciò che ella era usa di vedere nello specchio, prima di essersi tagliata i capelli. «Mia piccola signora, dove state andando?» disse la zingara in tono di lusinghiera deferenza. Era delizioso, e proprio quel che Maggie si aspettava. I zingari vedevano subito che era una piccola signora ed erano pronti a trattarla in conseguenza. «Non più lontano di qui», disse Maggie, col sentimento di star dicendo cosa di cui avesse già fatto le prove in sogno. «Son venuta per restare con voi, se vi piace». «Oh, ma è magnifico, venite dunque! Ma guarda che graziosa piccola dama che siete veramente!» disse la zingara prendendola per mano. Maggie la trovò molto amabile, ma avrebbe desiderato che non fosse così sudicia. C'era tutto un gruppo in giro intorno al fuoco quando esse vi giunsero. Una vecchia zingara stava seduta per terra, carezzandosi i ginocchi, e ogni tanto rimestando con uno spiedino entro una caldaia rotonda che mandava fuori un fumo graveolente. Due piccoli bambini orribilmente capelluti giacevano proni e appoggiati sui gomiti, un po' simili a due piccole sfingi, e un pacifico asino spenzolava la testa su una grande ragazza che, sdraiata sul dorso, gli solleticava il muso e lo consolava con una manciata di eccellente fieno rubato. I raggi del sole ociduo piovevano garbatamente su di loro e la scena, a gusto di Maggie, era davvero assai carina e simpatica, se non che ella sperava che presto avrebbero messo fuori le tazze da tè. Tutto sarebbe diventato perfettamente piacevole una volta che ella avesse insegnato agli zingari ad usare una bacinella per lavarsi e a prendere interesse per i libri. Era un po' sconcertante, tuttavia, che la giovane donna si fosse messa a parlare con la vecchia in una lingua che Maggie non capiva, mentre la grande ragazzona che stava dando da mangiare all'asino s'era seduta e la guardava fissa senza neppure salutarla. Alla fine la vecchia disse: «Dunque, mia graziosa piccola signora, voi siete venuta a stare con noi? Sedetevi e raccontateci d'onde arrivate». Proprio come una fiaba, a Maggie piaceva di essere chiamata piccola signora e di essere trattata a quel modo. Si sedette e disse: «Son venuta di casa mia perché sono infelice e ho intenzione di diventare una zingara. Vivrò con voi, se vi piace, vi potrò insegnare una quantità di cose». «Che piccola signora intelligente!» disse la donna col bimbo, sedendosi accanto a Maggie e lasciando che il bimbo si trascinasse per terra. «E che bel cappello e che bella veste!» soggiunse, prendendo il cappello a Maggie e guardandolo mentre rivolgeva alla vecchia un'osservazione nella lingua sconosciuta. La grande ragazzona agguantò il cappello e se lo ficcò in capo a sghimbescio con un ghigno. Maggie era decisa a non mostrare alcuna debolezza in proposito, perché non si avesse a crederla suscettibile riguardo al proprio cappello. Oh, non ci tengo di portare il cappello, disse. Preferisco un fazzoletto rosso come i vostri, guardando l'amica che le stava accanto. Avevo i capelli lunghi fino a ieri, poi me li sono tagliati, ma credo che torneranno a crescermi ben presto, aggiunse a propria discolpa, pensando che probabilmente gli Zingari avevano forti pregiudizi in favore dei capelli lunghi. E Maggie, in quel momento, si era dimenticata perfino della propria fame nel desiderio di conciliarsi la stima degli Zingari. Oh, che simpatica piccola signora, e ricca, ne sono certa, disse la vecchia. A casa vostra abitavate un bel palazzo, non è vero? Sì, la mia casa è graziosa, io amo tanto il fiume dove si va a pescare, ma mi sento spesso così infelice. Mi sarebbe piaciuto di portare con me i miei libri, ma sono scappata in fretta, capite? Ma vi posso raccontare quasi tutto quello che c'è nei miei libri, tante volte li ho letti e vi divertirete. E vi posso anche spiegare qualcosa di geografia del mondo in cui viviamo, è molto utile ed interessante. Non avete mai sentito parlare di Colombo? Gli occhi di Maggie avevano incominciato a brillare e le sue guance a colorirsi. Già ella era sul punto di mettersi a istruire gli Zingari e di acquistare una grande influenza su di loro. Le Zingare stesse ascoltavano quel discorso non senza stupore, quantunque la loro attenzione forse parzialmente distratta dal contenuto delle tasche di Maggie, che l'amica di destra aveva nel frattempo vuotate, senza che ella se ne accorgesse. «È il posto dove abitate, mia piccola signora?» disse la vecchia all'udire il nome di Colombo. Oh no! Disse Maggie con una certa commiserazione. Colombo era un uomo straordinario che scoprì mezzo mondo e lo misero in catene e lo trattarono molto male, sapete? È scritto nel mio manuale di geografia, ma forse sarebbe un po' lungo da raccontare prima del tè. Ho tanta voglia del mio tè. Queste parole sfuggirono a Maggie, suo malgrado, con un repentino crollo delle benevole intenzioni pedagogiche in un semplice malcontento. Ma come? Ha fame la povera piccola signora, disse la donna giovane. Dalle un po' di pietanza fredda, dovete aver fatto tanta strada, ci scommetterei, mia cara. Dov'è la vostra casa? È il mulino di Dorlcote, parecchio lontano, disse Maggie. Mio padre è Mr. Tulliver, ma non dobbiamo fargli sapere dove sono, altrimenti lui verrà qui per riportarmi a casa. Dove sta la regina degli Zingari? Come? Volete andare da lei, mia piccola signora? Disse la giovane donna. La grande ragazzona aveva continuato per tutto quel tempo a fissare Maggie sogghignando. I suoi modi non erano certamente gradevoli. No, disse Maggie. Stavo pensando soltanto che se non è una regina tanto buona, voi dovete essere contenti quando muore, così potrete sceglierne un'altra. Se io fossi una regina, sarei una regina molto buona e gentile con tutti. Questo è un buon boccone di pietanza, ecco, disse la vecchia, porgendo a Maggie un tozzo di pane secco che aveva tolto da un sacco di rimasugli e un pezzo di lardo freddo. Grazie, disse Maggie, guardando quel cibo senza toccarlo. Ma non potreste invece darmi un po' di tè con pane e burro? Il lardo non mi piace. Non abbiamo né burro né tè, disse la vecchia, con qualcosa di torvo nell'espressione, come se cominciasse a sentirsi stanca di far moine. Oh, un po' di pane e melassa mi basterà, disse Maggie. Non ne abbiamo della melassa, disse la vecchia aspramente. Dopodiché si iniziò fra le due donne un brusco dialogo nella lingua sconosciuta. E una delle piccole sfingi afferrò quel pane e quel lardo e si mise a mangiarlo. In quel momento la grande ragazzona, che s'era allontanata di qualche passo, tornò a dire qualcosa che produsse un forte effetto. La vecchia parve dimenticarsi della fame di Maggie e si mise con rinnovato vigore a rimestare con lo spiedino entro la pentola, e la più giovane si infilò sotto la tenda e portò fuori alcuni piatti e cucchiai. Maggie tremava un poco ed aveva paura che sulle ciglia stessero per spuntarle le lacrime. In quel momento la grande ragazzona mandò un grido acuto. E subito il ragazzo che dormiva, quando Maggie gli era passata accanto, arrivò di corsa, un rozzo monello pressa poco dell'età di Tom. Fissò Maggie e dopodiché nacque tutto un incomprensibile bisbigliare. Ella si sentiva tanto sola ed era sicurissima che tra non molto si sarebbe messa a piangere. Le Zingare non parevano affatto curarsi di lei, che si sentiva molto indifesa tra loro. ma le lacrime che stavano per sgorgare furono trattenute da un nuovo terrore quando giunsero i due uomini, la cui venuta era stata appunto causa di quell'improvvisa agitazione. Il più vecchio dei due portava un sacco che buttò giù, rivolgendosi alle donne, in un forte tono di rampogna, a cui esse risposero con una gragnuola di acute insolenze, mentre un bastardo nero si avventò abbaiando contro Maggie e la gettò in uno stato di terrore che non fece che accrescersi per il modo come l'uomo più giovane richiamò il cane e gli sferrò una botta col grosso bastone che teneva in mano. Maggie sentì che le era impossibile diventare la regina di quel popolo e impartir loro delle divertenti e utili nozioni. Ora i due uomini pareva si stessero informando sul conto di Maggie perché la guardavano e la conversazione prese quell'andamento pacifico che indica curiosità da una parte e dall'altra capacità di soddisfarla. Alla fine, la più giovane delle donne disse in quel tono di deferente lusinga che aveva avuto dianzi: «Questa graziosa piccola signora è venuta a vivere con noi. Non siete contenti?» «Tanto contenti», disse il più giovane, che stava guardando il ditale d'argento e gli altri piccoli articoli che erano stati tolti dalla tasca di Maggie. Fatta eccezione per il ditale, li restituì tutti alla giovane donna con parecchie osservazioni e quella immediatamente li reintegrò nella tasca di Maggie, mentre gli uomini s'eran seduti e cominciavano ad attaccare il contenuto della pentola, uno stufato di carne e patate che era stato tratto dal fuoco e rovesciato entro un piatto giallo. Maggie cominciava a pensare che Tom doveva avere ragione sul conto degli zingari. Certamente dovevano essere dei ladri, a meno che l'uomo contasse di renderle più tardi il suo ditale. Glielo avrebbe regalato volentieri, perché non ci teneva affatto al suo ditale, ma l'idea di essere in mezzo ai ladri le impedì di sentirsi confortata da quel nuovo risveglio di deferenza e di attenzione verso di lei. Tutti i ladri, eccetto Robin Hood, erano gente malvagia. Le donne videro che era spaventata. «Non abbiamo nulla di buono da mangiare per una signora», disse la vecchia con quella sua aria di cerimonia, «e ha tanta fame la dolce piccola signora. Ecco, mia cara, vedete un po' se potete mangiare un pezzetto di questo», disse la più giovane, offrendo su un piatto scuro con un cucchiaio di ferro un po' di stufato a Maggie, la quale, ricordandosi che la vecchia era parsa irritata contro di lei perché non le piaceva il pane lardo, non osò rifiutare lo stufato, quantunque la paura le avesse cacciato via l'appetito. Se suo padre fosse un po' venuto con la carrozza a portarla via, o anche se Jack, l'uccisore di giganti, o il signor Grancuore o San Giorgio che abbatte il drago sulle monete da mezzo penny, fossero capitate a passare di là. Ma Maggie pensò, con cuore oppresso, che quegli eroi non erano mai stati veduti dalle parti di St. Oaks. Da quelle parti non succedeva mai nulla di straordinario. Maggie Tulliver, voi ve ne accorgete, non era per nessun conto una giovinetta ben educata e istruita, com'è di necessità una piccola donnetta di 8 o 9 anni ai nostri giorni. Era stata soltanto un anno a scuola a St. Oaks e aveva così pochi libri che qualche volta doveva leggere il dizionario. Sicché, nell'esplorare la sua piccola testa, voi avreste potuto trovare tanto la più inaspettata ignoranza quanto la più inaspettata cultura. Ella avrebbe potuto informarvi che c'è una parola come poligamia, e siccome era anche a conoscenza di polisillabo, ne aveva dedotto che poli significa parecchi. Ma viceversa, non aveva idea che gli zingari potessero essere mal forniti di commestibili, e in generale i suoi pensieri erano la più singolare miscela di acume chiaroveggente e di ciechi sogni. Le sue idee in merito agli zingari avevano subito una rapida modificazione durante gli ultimi 5 minuti. Dopo di averli considerati dei compagni degni di molto rispetto, suscettibili di istruzione, s'era messa a pensare che forse essi avevano intenzione di ucciderla appena fosse buio e di squartare il suo corpo per cucinarlo a poco alla volta. L'attraversò il sospetto che quel vecchio uomo, dagli occhi feroci, fosse effettivamente il diavolo, il quale da un momento all'altro avrebbe lasciato cadere quell'evidente travestimento e si sarebbe mutato nel ghignante maniscalco o anche in un mostro dagli occhi di fuoco e dalle ali di drago. Vano tentare di ingollarlo stufato. E tuttavia ciò che ella più temeva era di offendere gli zingari, lasciando trasparire l'opinione estremamente sfavorevole che aveva di loro, e si domandava, con una vivacità di interesse che nessun teologo avrebbe superata, se il diavolo, nel caso che fosse realmente presente, potesse leggere i suoi pensieri. Come? Non vi piace l'odore che ha, mia cara? Disse la giovane donna, osservando che Maggie non prendeva neppure una cucchiaiata dello stufato. Provatene un boccone, su. No, grazie, disse Maggie, facendo appello a tutte le sue energie per uno sforzo disperato e tentando di sorridere amichevolmente. Non ho più tempo, credo. Mi pare che si faccia buio. Credo che ora dovrò andarmene a casa. Tornerò un altro giorno e allora vi porterò un paniere con delle tartine di confettura e tante altre cose. Appena buttata là questa illusoria promessa, Maggie si alzò, devotamente sperando che Belzebù fosse un credulo, ma la sua speranza svanì. Quando la vecchia zingara disse: un momento, piccola signora, vi riporteremo noi a casa sana e salva quando avremo fatto cena. Tornerete a casa a cavallo come una signora. Maggie si rimise a sedere con poca fede in questa promessa, quantunque vedesse subito che la grande ragazzona stava mettendo le briglie all'asino e gettava un paio di sacchi sul dorso dell'animale. Bene, adesso, madamina, disse l'uomo più giovane, alzandosi e conducendo avanti l'asino, diteci dove state, come si chiama quella località. Casa mia è al mulino di Dorlcote, disse Maggie impetuosamente. Mio padre è Mr. Tulliver e abita là. Come? Quel grande mulino un po' in disparte da St. Oaks? Sì, disse Maggie, è molto lontano. Credo che preferirei di andarci a piedi se non vi dispiace. Oh, no, no, sta venendo notte, bisogna far presto e l'asino vi porterà con tutto il garbo possibile, vedrete. Mentre parlava, sollevò Maggie e la sedette sull'asino. Ella si sentì confortata perché, a quanto pareva, non sarebbe stato il vecchio ad accompagnarla, ma di star davvero tornando a casa non ebbe che una malcerta speranza. Ecco il vostro grazioso cappello, disse la giovane donna, rimettendo sulla testa di Maggie quel capo di vestiario poc'anzi disprezzato ma ora bene accolto. E voi racconterete che siamo stati molto buoni con voi, ne è vero? E vi abbiamo detto che siete una gentile piccola signora? Oh, sì, grazie, disse Maggie. Vi sono molto riconoscente, ma vorrei che anche voi veniste con me. Pensava che qualunque cosa era preferibile all'andarsene sola con uno di quegli uomini tremendi. Sarebbe stato più allegro di essere uccisa da una numerosa compagnia. Ah, voi mi volete molto bene, non è vero? Disse la donna. Ma non posso venire, voi andrete troppo in fretta per me. Risultò allora che anche l'uomo doveva sedersi sull'asino tenendo davanti a sé Maggie, la quale non era meno incapace che l'asino stesso di protestare contro quella decisione, quantunque nessun incubo dei suoi sogni le fosse mai parso tanto terribile. Dopo che la donna, datole qualche leggero colpetto sulla spalla, le ebbe detto addio, l'asino, a un energico cenno del bastone dell'uomo, partì in rapido trotto lungo il sentiero, nella direzione donde Maggie era provenuta un'ora prima. Frattanto la grande ragazzona e il rude monello, forniti essi pure di bastoni, li scortarono cavallerescamente per i primi 100 passi con molto schiamazzo e rumor di bastonate. Neppure Leonora, nella sua soprannaturale escursione di mezzanotte con l'amante fantasma, era più atterrita di quanto fosse Maggie durante quella cavalcata, così perfettamente naturale, sul dorso di un asino trotterellante con uno zingaro dietro le spalle, il quale pensava che stava guadagnando mezza corona. La rossa luce del tramonto pareva avere portentosi significati, con i quali gli impressionanti ragli dell'altro asino, quello dalle pastoie alle zampe, dovevano certamente avere qualche rapporto. Due capanne dal basso tetto di paglia, le sole case che essi incontrarono su quel sentiero, pareva crescessero l'orrore. Non avevano, per così dire, finestre e le porte erano chiuse. Era probabile che fossero abitate da streghe e fu un conforto constatare che l'asino non vi si fermava. Alla fine, oh vista di gioia, questo sentiero, il più lungo del mondo, giungeva al suo termine e si apriva su un ampio stradone dove, ecco, stava passando una carrozza. E c'era sull'incrocio un cartello indicatore. Quel cartello sicuramente ella l'aveva già veduto altra volta. A St. Oaks, 2 miglia. Dunque, Lo zingaro aveva proprio intenzione di portarla a casa. Era un brav'uomo, dopo tutto, e poteva anche essersi un po' seccato al pensiero che ella non avesse piacere di andar sola con lui. Quell'idea acquistava più forza di mano che Maggie diventava più certa di conoscere benissimo quella strada, sicché ella stava studiando come avrebbe potuto attaccare conversazione con lo zingaro oltraggiato, e non soltanto per offrire una riparazione ai sentimenti di lui, ma per cancellargli l'impressione della propria codardia. Quando, nel giungere all'incrocio, Maggie fu colpita dalla vista di qualcuno che arrivava su un cavallo dalla testa bianca. «Ferma! Ferma!» gridò. «Ecco mio padre! Oh, babbo! Babbo!» La gioia subitanea era quasi dolorosa, e così, prima che il babbo la raggiunse, ella stava singhiozzando. Grande fu lo stupore di Mr. Tulliver, perché tornando da Bassett gli aveva fatto un giro e non era ancora stato a casa. «Come? Che cosa vuol dire questo?» disse trattenendo il cavallo, mentre Maggie si lasciava scivolar giù dall'asino e correva verso la staffa del padre. «La signorina si è smarrita, credo», disse lo zingaro. «È giunta alla nostra tenda al termine estremo del sentiero di Dunlow, ed io stavo riportandola dove ha detto di abitare, ed è un bel tratto di strada quando si è già stati tutto il giorno in giro». «Oh sì, babbo, è stato molto buono a ricondurmi a casa», disse Maggie, «proprio un caro brav'uomo». «Eccovi dunque, brav'uomo», disse Mr. Tulliver, estraendo 5 scellini. «È la miglior giornata di lavoro che abbiate mai fatto. Sarebbe stato più forte di me se avessi perduto la piccina. Via, mettetemela su, qui, davanti a me». «Dunque, Maggie, come si spiega, come si spiega?» ripeteva, mentre cavalcavano. Ella aveva lasciato cadere il capo sul petto del babbo e singhiozzava. «Come t'è successo di andare in giro e di perderti?» «Oh, babbo!» singhiozzò Maggie. «Sono fuggita perché ero tanto infelice. Tom era così irritato contro di me ed io non lo potevo sopportare». «Po', po', disse Mr. Tulliver confortandola, «non devi mai pensare di fuggire lontano dal babbo. Che farebbe il babbo senza la sua piccina?» «Oh, no, non lo farò mai più, babbo mio». Mr. Tulliver quella sera, quando giunse a casa, spiattellò molto energicamente le sue idee, e le conseguenze si manifestarono in questo fatto saliente, che Maggie non si sentì mai fare nessun rimprovero dalla mamma e nessuna rampogna da Tom per quella sconsigliata impresa della fuga tra gli zingari. Maggie fu alquanto intimorita dall'insolito trattamento e qualche volta pensava che la sua condotta fosse stata troppo cattiva, anche solo per parlarne. 12. Mr. e Mrs. Glegg in casa propria. Per vedere Mr. e Mrs. Glegg in casa loro, dobbiamo penetrare nella città di St. Oaks. Veneranda città dai tetti rossi e dalle ampie banchine dove i neri vascelli svuotano i carichi fatti nel lontano settentrione e portano via in cambio i preziosi prodotti dell'interno. I formaggi compatti e i soffici velli con cui i miei raffinati lettori hanno certo già stretto conoscenza per il tramite delle migliori pastorali classiche. È una di quelle vecchie, vecchie città che danno il senso di una tradizione e di un prodotto di natura, come i nidi degli uccelli australiani o le sinuose gallerie delle formiche bianche. Una città che porta le tracce della sua lunga crescita e della sua storia, come un albero millenario. Venuta su e sviluppatasi sempre in quella località tra il fiume e la bassa collina, dal tempo in cui le legioni romane la abbandonarono, lasciando il loro accampamento sul fianco della collina, e i re marinai, dalle lunghe chiome, risalirono il fiume e fissarono i loro fieri, cupidi occhi sulla regione opulenta. È una città familiare con gli occhi dimenticati. L'ombra dell'eroico re sassone vi si aggira ancora, a quando, a rivedere i luoghi della sua giovinezza e dei suoi tempi d'amore, e si incontra con l'ombra più cupa del terribile pagano danese che fu morto fra mezzo ai suoi guerrieri dalla spada di un invisibile vendicatore, e nelle sere d'autunno si leva, simile a bianco vapore, dal suo tumulo sulle colline e vagola per la corte dell'antico castello in riva al fiume. Il luogo dove un giorno fu miracolosamente ucciso avanti che l'antico castello fosse costruito. Furono i Normanni ad iniziare la costruzione di quel bel castello antico che è simile alla città e narra, come lei, i pensieri e le opere di generazioni sempre in lotta. Ma tutto è così vecchio che noi ora guardiamo con affettuosa indulgenza le sue incongruenze architettoniche. E siamo contenti che coloro i quali costruirono la bifora di pietra e coloro che costruirono la facciata gotica e le torri del più bello e minuzioso lavoro di cotto con gli ornati a trifoglio non abbiano abbattuto con mano sacrilega la primitiva ala, mezza in legname, con la sala dei banchetti della volta in quercia. Ma ancor più vecchio che questo vecchio castello è forse il frammento di muro incluso ora nel campanile della chiesa parrocchiale, che si dice sia un resto della primitiva cappella dedicata a St. Ogg's, il patrono di quell'antica città della cui storia io posseggo parecchie versioni manoscritte. Io propendo per la più breve, perché se anche non totalmente vera, sarà probabilmente quella che contiene il meno di falsità. Og, figlio di Beorl, dice il mio agiografo particolare, era un barcaiolo che si guadagnava a stento da vivere traghettando i passeggeri attraverso il fiume Floss. E una sera che i venti erano forti, accade che una donna con un bimbo sulle braccia si sedesse là sul margine del fiume facendo lamento. Ed era coperta di cenci, ed era stanca e sfiorita nell'aspetto, e implorava di essere traghettata di là dal fiume. E gli uomini di intorno la interrogarono e le dissero: perché mai desideri passare il fiume? Attendi il mattino e cercati qui asilo per la notte. In tal modo sarai savia e non folle. Nullameno ella seguitò a fare lamenti e ad implorare, ma Og, figlio di Beorl, venne e disse: ti voglio portare di là. Se il tuo cuore ha bisogno di ciò, mi basta. Ed egli la portò di là, e avvenne che, come ella pose piede sulla riva, i suoi cenci si trasformarono in vesti di bianco velo, e il suo viso divenne di luce, meravigliosamente bello, e un'aureola era intorno ad esso, sicché ella spargeva una luce sulle acque come la luna nel suo splendore, ed ella disse: Og, figlio di Beorl, tu sei benedetto, perciò che non hai fatto domanda né contesa alla distretta di un cuore. Anzi, fosti tocco da pietà e subito gli recasti soccorso, e quindi innanzi chi porrà piede sulla barca sarà sicuro dalla tempesta. E quante volte essa uscirà a salvataggio, scamperà le vite, così degli uomini come degli animali. E quando vennero le piene, molti furono salvati in grazia di quella benedizione della barca. Ma quando Og, figlio di Berlo, morì, ecco, al dipartirsi dell'anima sua, da sola la barca si sciolse dall'ormeggio e dal riflusso della marea, con grande rapidità, fu portata all'oceano e non fu veduta mai più. Però fu testimoniato nelle inondazioni che seguirono che, al loro appressarsi, Og, figlio di Beorl, fu sempre veduto con la sua barca sulle acque prorompenti. E la Vergine benedetta era seduta a prora via e spargeva tutto in giro una luce simile alla luna nel suo splendore, sicché i barcaioli, nelle tenebre addensate, riprendevano cuore e remavano con nuova gagliardia. Questa leggenda, come si vede, rispecchia fin dai tempi remoti l'afflizione delle piene, alle quali, anche quando risparmiavano le vite degli uomini, erano largamente fatali al bestiame indifeso e spazzavano via in una morte subitanea tutti i più minuti esseri viventi. Ma la città conobbe delle angustie peggiori che le inondazioni, le angustie delle guerre civili, quando era un continuo campo di battaglia, dove prima i puritani ringraziavano Dio per il sangue dei lealisti, poi i lealisti ringraziavano Dio per il sangue dei puritani. Molti onesti cittadini perdettero in quei tempi tutti i loro averi per salvare le proprie coscienze ed uscirono mendichi dalla loro città nativa. Senza dubbio, molte delle case di oggi sorgono su quelle abbandonate in lacrime da quegli onesti cittadini. Case dagli antichi frontoni affacciate sul fiume, imprigionate tra i magazzini più recenti e attraversate da sorprendenti passaggi che girano e girano ad angoli stretti finché vi menano fuori su una riva fangosa continuamente sommersa dall'alta marea. Dappertutto le costruzioni di cotto mostrano la loro tinta calda e all'epoca di Mrs. Glegg non c'erano incongrue eleganze moderne, né specchi alle vetrine delle botteghe, né facciate di stucco o altri fallaci tentativi di dare alla bella e vecchia e rossa St. Ogg's l'aria di una città venuta su ieri. Le vetrine delle botteghe erano piccole e senza pretese, perché le mogli e le figlie dei fattori che andavano a fare le loro compere nei giorni di mercato non si sarebbero certo lasciate tentare ad abbandonare alle loro tradizionali e ben note botteghe, e i negozianti non tenevano articoli destinati a quegli avventori di passaggio che poi non si rivedono mai più. Ah, anche i giorni di Mrs. Glegg ci paiono adesso ben lontani nel tempo, separati da noi per via di mutamenti che rendono più vaste le annate. Guerre e rumori di guerre s'erano allora spenti negli animi degli uomini, e semmai s'affacciavano al pensiero dei fattori in soprabito scuro, che scuotevano le granaglie fuori dai loro sacchetti di campione e ne discutevano nella formicolante piazza del mercato. Non erano che ricordi di uno stato di cose appartenente ad una remota età dell'oro, quando i prezzi erano alti. Era certo passato per sempre il tempo in cui l'ampio fiume poteva recare navi, tutt'altro che gradite. La Russia era soltanto il paese donde veniva il seme di lino, e più ne veniva tanto meglio perché dava da lavorare alle grandi macine verticali con le loro braccia simili a falci, che muggivano e stridevano e ripulivano tutto con cura, come se in loro ci fosse un'anima che li dirigesse. I cattolici, le cattive messi, le misteriose fluttuazioni del commercio erano i tre mali che l'umanità aveva da temere. Perfino le inondazioni erano state men gravi negli ultimi anni. Lo spirito della gente di St. Ogg's non spaziava nell'avvenire o nel passato, ereditava una lunga tradizione, senza pensarci più che tanto, e non aveva occhi per gli spiriti che vagavano per le strade. Dai secoli in cui St. Ogg's, con la sua barca e la Vergine Madre a prora, era stato veduto sulla faccia delle acque, tante memorie erano state lasciate dietro le spalle, e a poco poco svanite come lontananti sommità di montagne. E l'età presente era simile a quei paesi piani, dove la gente non crede più ai vulcani e ai terremoti, pensando che il domani sarà come ieri e che le forze giganti già use a scuoter la terra si sono per sempre addormentate. Passati erano i giorni in cui gli uomini potevano ardentemente infiammarsi per la loro fede e più ancora abiurare. I cattolici erano temibili perché potevano impadronirsi del governo e della proprietà e bruciar viva la gente, non già perché qualche equilibrato ed onesto parrocchiano di St. Ogg's potesse da loro essere costretto a credere nel Papa. I vecchi si ricordavano ancora come una folla ignorante fosse stata conquistata quando John Wesley predicava nel mercato del bestiame. Ma da molto tempo ormai nessuno sospettava più che i predicatori potessero sconvolgere l'anima degli uomini. Un passeggero risveglio di fervore sui pulpiti dei dissidenti per la questione del battesimo dei bambini era stato il solo ritorno di uno zelo poco adatto ai tempi ormai calmi, in cui non si parlava più di conversioni. Il protestantismo riposava tranquillo, senza pensare a scismi, incurante di far proseliti. La dissidenza era una cosa ereditaria, connessa con un banco d'onore in chiesa ed una società commerciale. E gli ecclesiastici non nutrivano per essa che uno stupito disprezzo, come per uno stolto costume largamente diffusosi tra le famiglie dei piccoli esercenti e commercianti, quantunque non incompatibile con i prosperi commerci all'ingrosso. Ma con la questione cattolica s'era levato un leggero vento di controversia per rompere la calma. Il vecchio rettore s'era dato per un momento a far della storia e dell'apologetica, e Mr. Spray, il sacerdote indipendente, s'era messo a tenere delle prediche politiche nelle quali distingueva con molta sottigliezza fra la propria fervida fede nei diritti dei cattolici alla piena libertà e la propria fervida fede nella loro eterna perdizione. Ma la maggior parte degli uditori di Mr. Spray erano incapaci di seguirlo in simili sottigliezze. E molti dissidenti dall'antico stampo erano assai addolorati dal suo parteggiare per i cattolici, mentre altri pensavano che avrebbe fatto meglio a lasciar stare la politica. Lo spirito pubblico non era tenuto in gran conto a St. Ogg's, e gli uomini che si occupavano di questioni politiche erano guardati con sospetto, come individui pericolosi. Si trattava in genere di persone che avevano pochi o punti affari privati, o se ne avevano, erano verosimilmente sulla strada di diventare insolventi. Era questo il generale aspetto delle cose in St. Ogg's ai giorni di Mrs. Glegg, e nel particolare periodo della storia della sua famiglia in cui ella aveva avuto quel litigio con Mr. Tulliver. Erano tempi in cui l'ignoranza era assai più comoda che al giorno d'oggi e veniva ricevuta con tutti gli onori nella migliore società, senza sentirsi costretta a camuffarsi di un'accurata parvenza di cultura. Tempi in cui non esistevano i periodici a buon mercato e i medici di campagna non pensavano neppure di domandare alle loro pazienti se amassero la lettura, anzi tenevano pacificamente per certo che se preferivano spettegolare. Tempi in cui le dame in ricche vesti di seta portavano grandi tasche dove tenevano un osso di montone per immunizzarsi contro i crampi. Anche Mrs. Glegg portava il suo osso, ereditato dalla nonna, insieme con una veste di broccato che stava in piedi da sola, come un'armatura, nonché un bastone dal pomo d'argento, perché la rispettabilità della famiglia Dodson risaliva già a parecchie generazioni. Mrs. Glegg possedeva due salotti, uno sulla facciata anteriore e uno su quella posteriore della sua ottima casa di St. Ogg's, sicché aveva due punti di vista donde poteva osservare le debolezze dei suoi simili e corroborare la propria gratitudine per l'eccezionale forza d'animo di cui era dotata. Dalla finestra sul davanti, ella poteva guardare sulla Tofton Road che portava fuori di St. Ogg's e notare la crescente tendenza ad andarsene in giro nelle mogli degli uomini non ancora ritirati dagli affari, nonché la moda di portare le calze di cotone fatte a macchina, infausto presagio per le generazioni a venire. Dalla finestra posteriore, che guardava sul piacevole giardino e sull'orto esteso sino al fiume, poteva osservare la follia di Mr. Glegg, che sciupava il proprio tempo tra i suoi fiori e i suoi ortaggi. Giacché Mr. Glegg, ritiratosi dai suoi attivi commerci di lana col proposito di godersi il resto dei suoi giorni, aveva poi trovato l'occupazione di oziare molto più faticosa che quella degli affari, tanto che era stato tratto a quelle fatiche da dilettante come ad una distrazione, e per riposarsi finiva col fare il lavoro di due dei soliti giardinieri. Il risparmio del salario di un giardiniere avrebbe forse indotto Mrs. Glegg a indulgere a una simile follia se, a donna di mente sana, fosse stato possibile di fingere almeno un po' di rispetto per le fissazioni del proprio marito. Ma è ben noto che queste condiscendenze coniugali appartengono solo alla più fiacca parte del sesso debole, scarsamente sensibile alle responsabilità di una moglie, freno designato ai piaceri del marito, i quali piaceri ben di rado sono di natura ragionevole e raccomandabile. Mr. Glegg aveva però da parte sua una doppia sorgente di occupazione mentale, che dava ogni affidamento d'essere inesauribile. Da un lato, egli si sorprendeva delle proprie scoperte di storia naturale, trovando che quell'appezzamento di giardino conteneva meravigliosi bruchi, lumache e altri insetti che, per quanto egli ne aveva udito, non avevano mai prima d'allora attirato l'umana osservazione. E scopriva delle notevoli coincidenze tra questi fenomeni zoologici e i grandi avvenimenti dell'epoca. Così, per esempio, avanti l'incendio della cattedrale di York, erano comparsi dei misteriosi segni serpentini sulle foglie dei rosai, come pure un'insolita abbondanza di lumache, per scoprire il significato della quale egli si era parecchio rotta la testa, finché tale significato gli balenò d'un tratto al prodursi del triste avvenimento. Mr. Glegg aveva una dose tutt'altro che comune di attività mentale, che una volta disimpegnata dal commercio laniero si era naturalmente aperta una via in altra direzione. E il secondo dei suoi soggetti di meditazione era lo spirito di contraddizione delle donne, quale si dimostrava tipicamente in Mrs. Glegg, sua moglie, che una creatura formata in senso genealogico con la costola dell'uomo, in questo caso particolare, mantenuta nella posizione più rispettabile, senza il minimo sforzo da parte sua, si trovasse normalmente in uno stato di contraddizione di fronte alle proposte più blande e perfino di fronte alle più accomodanti concessioni, era un tale mistero nell'ordine delle cose che per esso egli aveva molte volte, ma invano, cercato soccorso nei primi capitoli del Genesi. Mr. Glegg aveva scelto la maggiore delle signorine Dodson come una graziosa incarnazione della prudenza e dell'economia, ed essendo egli stesso proclive a guadagnare denaro e a risparmiarne, aveva fatto assegnamento su una bella armonia coniugale. Ma in quella curiosa composizione che è un carattere di donna, può facilmente succedere che il gusto riesca sgradevole, adonta degli ottimi ingredienti, e una bella parsimonia sistematica può accompagnarsi con tali condimenti che le tolgono ogni sapore. Ora, il buon Mr. Glegg era personalmente economo nella più amabile delle maniere. I suoi vicini lo chiamavano tirato, il che significa sempre che l'uomo in questione è un simpatico spilorcio. Se voi esprimevate una preferenza per le croste di formaggio, Mr. Glegg si ricordava sempre di conservarvele, con un bonario piacere di soddisfare il vostro palato, ed era sempre disposto a voler bene a tutti gli animaletti che non comportassero apprezzabili spese di mantenimento. Non c'era inganno né ipocrisia in Mr. Glegg. I suoi occhi si sarebbero sinceramente inumiditi davanti alla pubblica vendita del mobilio di una vedova, che un biglietto da 5 sterline estratto dalla sua tasca avrebbe potuto impedire. Ma il dono di 5 sterline ad una persona in condizioni di strettezza gli sarebbe sembrato una specie di folle prodigalità anziché una carità, la quale sempre gli si era presentata come un contributo di piccoli aiuti e non come un modo di scongiurare un rovescio di fortuna. E Mr. Glegg amava di risparmiare il denaro degli altri tale quale come il proprio. Era capace di fare un lungo giro a cavallo per evitare un pedaggio, tanto se le spese gli dovessero venire rimborsate, quanto se il denaro dovesse uscire di tasca sua, e spiegava tutto il suo zelo per tentare di indurre dei conoscenti, di cui non gli importava nulla, ad adottare un surrogato da buon prezzo per lucidare le scarpe. Questo inalienabile abito di economia, come fine a se stesso, era proprio degli industri uomini d'affari della vecchia generazione, che mettevano insieme lentamente le loro fortune, quasi come il seguir le peste della volpe e proprio del cane da caccia. Ciò costituiva per loro una gara, di cui quasi si è perso l'uso in questi tempi di rapidi guadagni, in cui la prodigalità tiene dietro prontamente all'indigenza. In queste epoche di antiche abitudini era difficile raggiungere una posizione indipendente senza un po' di parsimonia, e una tale qualità voi l'avreste potuta trovare in qualunque distretto di provincia, assortita con caratteri altrettanto vari quanto i frutti da cui si può estrarre un acido. I veri arpagoni furono sempre dei caratteri tipici ed eccezionali, non così i degni contribuenti che, pizzicati un tempo da reali strettezze, anche quando si erano ritirati a vita agiata, conservavano coi loro frutti di spalliera e i loro vini di bottiglia anche l'abitudine di considerare la vita come un ingegnoso sistema di arraffare il necessario, senza mai lasciare il minimo deficit, e che si sarebbero sentiti immediatamente disposti a fare a meno di un oggetto di lusso colpito da una nuova tassa, tanto allorché avevano un reddito annuo di 500 sterline, come quando avevano in tutto 500 sterline di capitale. Mr. Glegg era uno di questi uomini alquanto scomodi per la gente delle tasse, e a simile strego a voi sarete in grado di meglio comprendere come mai egli non si fosse dipartito dalla convinzione di aver fatto un matrimonio vantaggioso, a dispetto del troppo pungente condimento che la natura aveva dato alle virtù della maggiore delle signorine Dodson. Un uomo di carattere affettuoso, che trovi una moglie concorde con la sua fondamentale idea della vita, giunge facilmente alla persuasione che nessuna donna gli sarebbe convenuta altrettanto bene, e fa ogni giorno la sua piccola rottura e litigata senza aver affatto il senso di un'incompatibilità di carattere. Mr. Glegg, essendo riflessivo e non trovandosi più occupato nelle sue lane, aveva agio di meditare con stupore sulla singolare struttura mentale della donna, quale gli si rivelava attraverso la sua vita domestica, e tuttavia considerava la gestione casalinga di Mrs. Glegg come un modello per tutto il suo sesso. Nelle altre donne lo colpiva come una penosa irregolarità che non avvolgessero il loro tovagliolo con lo stesso rigore e solennità di Mrs. Glegg. che la loro pasticceria riuscisse meno croccante e le loro torte di prugne meno venerabilmente compatte che quelle di lei. Anzi, perfino il particolare odore, misto di spezie e droghe, della credenza privata di Mrs. Glegg, gli faceva l'impressione di essere l'unico aroma che potesse regolarmente emanare da una credenza. Non sono ben sicuro che egli non avrebbe smaniato di tornare a litigare qualora i litigi fossero cessati per una settimana. È certo in ogni caso che una moglie condiscendente e dolce avrebbe lasciato relativamente più aride le sue meditazioni e prive di mistero. L'inequivocabile dolcezza d'animo di Mr. Glegg si rivelava in questo, che lo addolorava di più il veder la moglie in discordia con gli altri, fosse pur con Dolly, la serva, che trovarsi egli medesimo in discussione con lei. E il litigio tra lei e Mr. Tulliver lo contrariava talmente da rendere nullo il piacere che altrimenti egli avrebbe provato nel constatare lo stato dei suoi primi cavoli durante la sua passeggiata per il giardino la mattina seguente, prima di colazione. Rientrò tuttavia per la colazione con un certo qual filo di speranza che, avendoci ormai Mrs. Glegg dormito sopra, la sua collera si fosse abbastanza attutita per dare luogo alla forza del suo abituale senso del decoro familiare. Era solita di vantarsi che tra i Dodson non c'erano mai stati di quei mortali litigi che avevano disonorato altre famiglie, che nessuno dei Dodson era mai stato defraudato di uno scellino e nessun cugino dei Dodson era stato rinnegato, e in verità, come sarebbe potuto darsi dal momento che non esistevano cugini sforniti di denaro disponibile o che non possedessero, nella peggiore delle ipotesi, qualche casa in proprio?